giorni strani e giorni chiusi, giorni persi e giorni vuoti. Sulla mia strada all'ombra della vita annuso il vento dei miei giorni. Anche se non ci sei, oggi sto bene lo stesso. Anche se non ci sei e tutto mi va storto, in fondo cosa sei? Ma dentro mi do torto, è solo colpa mia o tutta colpa tua. È una ragione in più per dirsi una bugia, per farsi male ancora e poi scappare via, per chiudersi in un vuoto che non ha pietà, per travestirsi di una falsa dignità, per non sentirsi inutili e fragili. Ma chi di noi può crederci se in fondo è tutto un alibi? Non c'è allegria nei giorni miei, nei tuoi, c'è appartieni o no, come farò ad andare avanti se tutti i giorni ti amo un po' di più? Come farò ad andare avanti se tutti i giorni ti amo un po'? Giorni scuri e giorni pigri, giorni lenti e giorni uguali. Sui vetri che si appannano di fiato, un'ora durerà 100 anni. Perché se non ci sei, per me non è lo stesso. Se tu non ci sei, è tutto capovolto in fondo ai giorni miei. Io cercherò il tuo volto in fondo a questa via, o sotto casa tua, in una notte buia di periferia, nel fumo di una moto che si perderà, dietro la scia di un attimo di libertà, per fare a pezzi questa falsa dignità. Ma sarà tutto inutile e fragile senza allegria. Nei giorni miei, nei tuoi, c'è troppa nostalgia. Non basteranno orgoglio per non sentirti mia. Nei giorni che non so se appartieni o no, come farò ad andare avanti se tutti i giorni ti amo un po' di più? Come farò ad andare avanti se tutti i giorni ti amo un po' di più?